Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 7 febbraio 2015, in Ghana quasi a zero la mortalità per malaria. Il Ghana ha vinto la sua battaglia contro la malaria. Come già altri stati, a partire dagli Emirati Arabi Uniti, lo Stato africano ha portato avanti una vasta operazione preventiva e ha potuto annunciare di avere raggiunto l'obiettivo all'inizio di questo 2015. Il tasso di mortalità infantile è infatti prossimo allo zero, ad un livello ritenuto fisiologico dagli esperti. La ricetta del Ministero della Salute di Accra, la capitale del paese, ha sposato prevenzione, rapidità di diagnosi, cure a costi ridotti. Fin qui la notizia del 7 febbraio 2015, ma come sapete il futuro ha radice nel presente, in questo 2012. All'inizio di quest'anno il Ghana ha annunciato di aver ridotto l'incidenza della malaria a soli 62 casi ogni 100.000 bambini. Tuttavia questa buona notizia potrebbe non bastare se la lotta alla malattia non si diffonde anche negli altri paesi, come spiega Maria Rita Gismondo, direttrice della cattedra di microbiologia dell'ospedale Sacco di Milano. La notizia del Ghana è certamente entusiasmante e su questa scia ne seguiranno delle altre. È certamente credibile, nel senso che molto si sta facendo in Africa, seppur con impegno diverso in base alle diverse regioni, per sconfiggere la malaria. Purtuttavia bisogna tenerti conto che l'intervento sulla malaria oggi può essere solo di tipo multifattoriale, nel senso che non basta agire con una procedura, non so, di bonifica dell'ambiente e poi non dotare di zanzariere la popolazione, non basta avere farmaci antimalarici. Allora, fino a quando non avremo un vaccino antimalarico che possa coprire, come è avvenuto con la poliomielite, praticamente il pianeta, quasi azzerando la casistica, non potremo mai parlare di aver sconfitto la malaria. Sottolineo che spesso, intervenendo in Africa, si commettono degli errori non valutando quello che è il substrato culturale, il substrato educazionale. Il fare campagne di prevenzione ha significato se si danno strumenti che sono forgiati su misura. Oggi in Africa le zanzariere sono molto più importanti dei farmaci. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.